Buongiorno a tutte voi e tutti voi. Niente. Allora, facci sì, diciamo che insomma sono un po' di giorni che non ci Sì, vi faccio sentiamo. un Sì, riassunto delle ultime settimane quello che sta dal succedendo. 25. Sì. Ok. Vabbè, niente, in pratica dal 25 gennaio la gente continua ad scendere in piazza Tahrir, ma non soltanto, insomma, in tutte le zone limitrofe. Il 25 è andato tutto abbastanza bene, il 26 c'è stata la condanna dei 21 ragazzi per il massacro di Port Said dell'anno scorso, accaduto il 1 febbraio 2012, e appunto sono stati condannati 21 ragazzi di Port Said. E naturalmente le famiglie di Port Said hanno cercato un conflitto appunto con le forze dell'ordine, insomma, e è andata sempre di più peggiorando la situazione. Infatti quel giorno ci sono stati 31 morti a causa di questi scontri, e il giorno seguente, cercando di fare il funerale, le forze dell'ordine hanno continuato a reprimere la gente e sono state uccise nello stesso funerale altre 7 persone. E diciamo che appunto oltre al Cairo la situazione è stata abbastanza tesa anche a Port Said, a Smailea, Alessandria d'Egitto. Ogni venerdì scendono in piazza e ci sono degli scontri continui con la polizia, perché la polizia adesso che si trova in prima linea a scontrarsi con i manifestanti. Quindi in questo scenario non ci sono i fratelli musulmani, non ci sono gli islamisti, non scendono in piazza. E il 28 come è stata la giornata del ricordo del venerdì della rabbia del 2011, quindi ci sono stati dei momenti al Cairo in particolare importanti per il movimento, in quanto alcuni blindati sono andati a fuoco e naturalmente le conseguenze repressive. Dal 25 fino a ieri è stato l'ultimo venerdì, sono molto pesanti. Parliamo di 800-900 arresti almeno al Cairo, molti bambini, perché molti sono i bambini che si trovano sempre in prima linea, e molti feriti, molti purtroppo i dispersi. E qualche morto purtroppo c'è stato, quindi la situazione è abbastanza tesa, vengono uccisi non soltanto da armi da fuoco, ma a volte per le torture e le violenze brutali che subiscono quando questi ragazzi vengono appunto arrestati dalla polizia. Senti, si Questa è parlava. un po' la situazione. Allora, se ti va, insomma, anche di farci sapere, anche a livello, insomma, di sostegno contro la repressione, cosa si sta facendo, visto che, insomma, che è sempre stato molto attivo i gruppi di supporto, in Egitto. E poi, se ti andava di raccontarci un po' questa questione che viene spesso affrontata, che è stata affrontata, qui in Italia, dai giornali, della questione degli stupri a Piazza Tahrir, Ok, comunque delle violenze sulle donne. per quanto riguarda la situazione degli stupri e delle violenze, diciamo che da vivere in un paese del Medio Oriente per una donna non è semplice, ma insomma neanche altrove. Per una donna non è mai semplice per motivi vari. Quello che succede a Piazza Tahrir, voglio precisare che accade soltanto a Piazza Tahrir con questa violenza e con questa brutalità, insomma. Quello che accade è che in situazioni di lancio di gas piuttosto che confusionali, perché c'è molta gente in piazza, accade che ci sono gruppi di ragazzi che possono accerchiare una ragazza e possono arrivare a violentarla, e a volte vengono soccorse, altre volte no. Per quanto riguarda questo gruppo, è stato un gruppo totalmente autogestito, e al di fuori di qualsiasi movimento o partito politico, quindi non ha nome, sono degli individui che hanno deciso di cercare di fare qualcosa in una situazione del genere. E, stai parlando del gruppo per la contro la repressione? Stai parlando del gruppo contro la repressione? No, contro le violenze. Contro le violenze. In piazza Tahrir. E quindi è stato fatto un numero per poter chiamare in caso di avvistamento appunto di ragazzi intorno a, insomma, alla vittima in questo caso. E quello che facevano era, per esempio, mettersi delle magliette con scritto, cioè, anti, come si dice, antiviolenza, antistupro, antiviolenza. Quello che succedeva che dopo un po' di tempo, e questa cosa va avanti da un po' di settimane, che gli stessi ragazzi, perché indossavano queste magliette antiviolenza, venivano picchiati isolatamente, cioè nel senso, proprio perché cercavano di evitare questa violenza, della violenza contro le donne, venivano loro stessi picchiati. Quindi la situazione è proprio degenerata del tutto, però fortunatamente le ragazze che sono state salvate sono parecchie, altre purtroppo non è potuto accadere questo, e cerchiamo in tutti i modi appunto di evitare che cose del genere accadano, però non è semplice. Quello che ci viene da pensare è che siano dei gruppi organizzati, perché appunto sono eventi che accadono esplicitamente a Piazza Tahrir e non, per esempio, negli avvenimenti davanti al palazzo, intorno al palazzo presidenziale o in altre parti del Cairo, della città. Senti, l'altra domanda era appunto, insomma, già da tempo in Egitto era vivo un gruppo che si occupava della repressione, in particolare, insomma, andava contro i processi militari ai civili. Volevo capire, sì, insomma, se c'era ancora una rete, e che rete c'era di supporto a questi continui arresti, torture, questa repressione, insomma, molto forte. Ok, diciamo che il Ministero dell'Interno cerca in tutti i modi di allontanarsi dal sapere dove vengono portati questi ragazzi arrestati. In un clima di tensione del genere, quello che è accaduto è che molti dei ragazzi non venivano lasciati nelle questure, ma venivano portati direttamente in prigione o comunque in dei posti dell'esercito, per questioni di sicurezza. Quindi quello che accadeva è che, grazie alla rete degli avvocati attivisti che seguono appunto le pratiche, sempre delle persone autonome, insomma, non un gruppo definito, insomma, non military trials, ma individui che scelgono di sostenere appunto i ragazzi arrestati. Quello che fa questo gruppo è cercare di indagare intanto dove si trovano i ragazzi, il numero dei ragazzi, le condizioni in cui stanno, se hanno bisogno di un supporto medico, eccetera. E quello che cercano di fare è anche portargli del cibo, perché naturalmente dove è possibile, insomma, entrare e far entrare del cibo, questa cosa accade. E dopodiché è una ricerca continua, perché a volte ci sono famiglie che vengono a cercare i figli, non li trovano all'interno delle questure né altrove, allora devono cercare negli ospedali, e a volte non si trovano neanche negli ospedali, devi andare a cercare il tuo figlio tra i dispersi o tra le persone che sono nell'obitorio, quindi la situazione è abbastanza pesante, però non hai il tempo di riflettere, quindi cerchi il più possibile di far uscire chi è dentro, quindi questa, insomma, questo è il lavoro che si fa sul campo, ed è questo, credo, uno cioè il supporto più importante che uno possa dare alle persone che decidono di scendere per strada, insomma. Senti, la gente continua a scendere in piazza, ci sono, insomma, le piazze sono solo molto piene, non soltanto in al Cairo, ma anche nel nord dell'Egitto. Cosa continua a chiedere la piazza? Cosa si, insomma? Diciamo che fondamentalmente la repressione è sempre più forte, quindi la gente è sempre più accanita verso, in questo caso, la polizia, perché è la polizia che abbiamo di fronte. La piazza continua a chiedere quello che chiedeva 2 anni fa, ossia libertà e giustizia sociale e dignità. Senti, in questi giorni, insomma, Morsi ha incontrato Ahmadinejad, ci sono stati, insomma, diversi incontri ai vertici del mondo arabo, e nonché, insomma, ha ricevuto anche diverse armi dagli Stati Uniti d'America. Insomma, qual è la politica? Insomma, cosa sta succedendo anche a livello governativo con i Fratelli Musulmani? Se si sta creando, anche oltre a un'opposizione di piazza, anche un'opposizione politica forte, penso a livello, non so, sindacale, piuttosto che più partitico, non so se... Diciamo che purtroppo, come in tutte le opposizioni, l'opposizione egiziana non riesce a essere così solida da poter dare una svolta alla situazione, e è per questo che la gente non trova fiducia nell'opposizione in alcun modo, e quindi continua a scendere in piazza. Se l'opposizione potesse o facesse effettivamente qualcosa, sicuramente la gente eviterebbe di continuare, insomma, a morire per strada. Diciamo che la situazione politica è sempre più complessa, perché da una parte sembra che iniziano ad esserci degli accordi tra i fratelli musulmani e l'esercito. Questo appunto si vede anche a causa della forte repressione che c'è da quando appunto Morsi è al potere, in particolar modo dal 25 gennaio. I fratelli musulmani e gli islamisti continuano a stare a casa per adesso, perché si vede che c'è qualcosa che sta accadendo e che adesso noi non siamo in grado di vedere. Quindi diciamo che anche le manifestazioni che erano state annunciate della scesa in piazza dei fratelli musulmani, eccetera, questa cosa non è avvenuta? No, ieri non sono scesi ancora. Ieri non sono scesi e ancora non si sa che cosa faranno, cioè per ora sono molte chiacchiere. Senti, invece al nord, Alessandria, Porto Said, insomma, si è parlato molto anche della questione degli ultra. Non so se ti andava anche un po' di spiegarci qual era la differenza anche con il nord, visto anche l'elevata composizione operaia, almeno di, o comunque di Porto Said, se lì c'erano, insomma, anche invece un'organizzazione un po' più politica e organizzata anche nelle piazze. Io personalmente non ero nei fatti e quindi non amo parlarne molto, però quello che posso dire è che Port Said come città è stata negli anni 70-80 uno dei posti della, cioè il cuore della resistenza. E quindi quest'animo di Port Said rimane tuttora e naturalmente la gravità delle condanne che hanno preso questi 21 ragazzi, che altro non sono che dei capri espiatori, perché comunque il massacro di Port Said è avvenuto all'interno di uno stadio a luci spente. Quindi effettivamente questi 21 ragazzi, che dovrebbero essere i nemici degli ultras Ahlewi, è un po' appunto decidere di macellare 21 ragazzi in questo modo brutale, e è stato infatti il processo è stato rimandato. Per quanto riguarda invece il governo, cioè nel senso chi ha commesso effettivamente questo crimine, il tribunale ha deciso di rimandare l'udienza. Quindi la risposta delle famiglie di assaltare la prigione piuttosto che la questura, io credo che sia abbastanza normale. La repressione che c'è stata è stata brutale e oltre ad essere stata brutale hanno continuato a reprimere, cosa che si sta ripetendo all'interno dei funerali dei ragazzi che sono caduti, reprimono gli stessi funerali. Cioè, a Port Said, dopo il massacro dei 31, delle 31 persone, nei funerali ne hanno ammazzati altri 7. Per esempio, nell'ultimo funerale che c'è stato di Mohammad Rigendi, il ragazzo di 23 anni che è stato massacrato di botte, insomma, dalla polizia, fino a che appunto non è arrivato all'ospedale in terapia intensiva. Sì, che di cui insomma si è l'unico video che è girato anche, diciamo così, sui media fuori dall'Egitto è proprio stato su questo caso, che ha ovviamente fatto discutere. Esatto, ma di questi casi ce ne sono molti. Purtroppo non tutto arriva ed è anche molto difficile riuscire in qualche modo a portare quello che uno vede davanti agli occhi. E quindi questo ragazzo, una volta il funerale è stato fatto intorno al centro del Cairo, West El Balad, e poi è arrivato a Piazza Tahrir. Dopodiché lui non era del Cairo, era di Tanta, quindi il funerale è stato continuato lì, e anche lì nel funerale del ragazzo ci sono stati lanci di gas lacrimogeni da parte della polizia. Quindi diciamo che la maggior parte dei ragazzi che muore quando poi arriva al paese o alla città d'origine, che magari non è il Cairo ma sono altri paesini intorno al Cairo, c'è appunto il calore delle persone del posto, e quindi c'è anche la rabbia di aver perso uno di loro. Quindi la situazione repressiva è pesante, anche perché non c'è il rispetto per il vivo, ma neanche il rispetto per il morto, insomma, non so come altro dirlo.